Giovani talenti. Giovani talenti di Sergio Nava. Buongiorno e bentrovati all'appuntamento settimanale con Giovani Talenti, voci dalla nuova emigrazione. Fare impresa giovane in Italia si può o è meglio andarsene per giocare su terreni più semplici e competitivi? Questo è il tema che farà da sfondo alla puntata di oggi, puntata in cui vogliamo lanciare un messaggio un po' controcorrente, partendo dalla storia della settimana, storia di un professionista under 40 che ha cofondato un'azienda di consulenza in Danimarca. Alle spalle un percorso in chiaroscuro in Italia, più chiaro nel lavoro con le imprese straniere, più scuro con quelle tricolori, in mezzo una grande voglia di fare sulla scorta di una formazione internazionale. Può l'imprenditorialità giovanile rappresentare la chiave di volta per il riscatto del nostro paese, per un cambiamento reale che freni la fuga del nostro capitale umano più qualificato? C'è tanto da fare, però credo che gli spazi di cambiamento ci sono ancora molti, si può fare bene, ripartire, stiamo credo già ripartendo. Claudio Pellegatta, 36 anni, è un imprenditore e business development manager a Kolumdaje, Copenaghen. Della sua storia parleremo tra pochi minuti, ora spazio al notiziario. Il governo vara il piano per il Sud con iniziative mirate anche ai giovani, esecutivo pronto a investire, grazie ai fondi comunitari, 220 milioni proprio per i giovani, con interventi relativi a imprenditorialità, apprendistato, lotta all'inattività, innovazione. Tra le priorità anche un piano per promuovere il rientro dei cervelli in fuga e il progetto Angels, dotazione pari a 5 milioni. Il ministro per la coesione territoriale Fabrizio Barca lo spiega così. Mobilitare 30 ricercatori giovani italiani che stanno in giro per il mondo in centri di ricerca, invece di dirgli torna, perché tornano se vogliono tornare, di dirgli venite a dare una mano all'Università del Sud, fate 30 ore di lezione, agitate le acque, insegnate metodi, insegnate a scrivere, poi pescate tre ragazzi di quelli che avete, sono venuti in aula, quelli che vi sono piaciuti di più, ve li portate per 3 mesi, e i soldi ci sono per portarseli 3 mesi, a fare uno stage nei loro centri di ricerca all'estero. E poi, terza fase, si chiede a questi ragazzi, avete beneficiato di questa cosa, sapete cosa c'è, vi diamo 2 soldini, tornate in Italia e contaminate con le cose che avete imparato gli altri ragazzi. Storia di Antonio e Sole, giovane coppia napoletana, storia raccontata sul sito web del quotidiano francese Le Parisien. Valigie pronte e carte in regola, spiega l'articolo, pronti a volare a San Diego, California. Sole, 27enne biologa molecolare, ha già firmato un contratto. Non ci ha neppure provato a cercare lavoro in Italia. Antonio è da 8 mesi senza paga. C'è soprattutto l'insoddisfazione lavorativa alla base della fuga all'estero. Secondo un sondaggio del quotidiano francese Les Echos, sono i tedeschi i dipendenti più fiduciosi, gli italiani i più depressi. Il 51% dei connazionali è insoddisfatto della propria situazione lavorativa e il voto medio della qualità di vita sul posto di lavoro è il più basso d'Europa. In Italia lavora solo il 56,8% delle persone tra i 15 e i 64 anni, un tasso di occupazione agli ultimi posti dell'area OCSE. Siamo al livello della Spagna, superiamo solo Ungheria, Grecia e Turchia. Per i giovani la situazione peggiora, con appena il 19,5% di under 25 al lavoro, 20 punti sotto la media OCSE, peggio solo Ungheria e Grecia. Nei paesi dell'Europa del Sud una persona su 5 e un giovane su 2 non trovano lavoro, un potenziale disastro in termini economici, sociali e umani, così il direttore generale dell'FMI Christine Lagarde. Nell'area OCSE quasi 11 milioni di giovani senza lavoro, il 17,1%. L'Italia è quarta nella classifica della disoccupazione giovanile dopo Grecia, Spagna e Portogallo. Laureati in molti casi con stage, master alle spalle e conoscenza delle lingue, eppure anche i cervelli d'Italia gettano la spugna. A rivelarlo un'indagine di lavorocomunicazione.it che ha registrato come, rispetto a 5 anni fa, la ricerca di lavoro online per i neolaureati sia diminuita del 43%. A influire negativamente sulle prospettive occupazionali dei giovani laureati c'è la dimensione delle imprese in Italia. Nel bel paese sono quasi 4 milioni, ma per la stragrande maggioranza piccolissime, lo afferma Eurostat. In Italia il 94,5% delle aziende è micro. Inoltre sono aziende vecchie, l'impresa italiana è sempre più in mano agli over 70, mentre diminuiscono quelle guidate dai giovani. Negli ultimi 5 anni le imprese con titolare under 30 sono calate del 14%, i settantenni e over 70 sono aumentati dello 0,7%, lo rivela Infocamere. Per la CGA le aziende guidate da neoimprenditori registrano le maggiori difficoltà. In programma giovedì 24 maggio a Roma, Guardo al futuro, stati generali delle politiche giovanili in Italia, info su guardoalfuturo.eu. E online sul sole24ore.com un dossier interamente dedicato ai cervelli in fuga, con storie, spunti e riflessioni sul tema. Un motivo per restare o tornare. Ci sono 3 atenei italiani tra le 15 destinazioni al top della classifica del programma Erasmus, lo afferma la Commissione Europea. La prima università per gli studenti comunitari in Italia è Bologna, poi la Sapienza di Roma, infine Firenze. Gli studenti italiani a fare le valigie per un Erasmus sono stati oltre 22.000. E ora spazio alla nostra rubrica Job Abroad sulle migliori opportunità di lavoro all'estero. Oggi vi segnaliamo: un editor all'ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani in Polonia, scadenza per i CV 22 maggio, info su osce.org/employment. Una design engineer al gruppo EADS, sede di Bristol, Gran Bretagna. Scadenza per i CV 31 maggio, info su eads.com. E infine un postdoc in chimica teorica alla Aarhus University, sede di Grenoble, Francia. Scadenza per i CV 1 giugno, info su chem.au.dk. La storia di questa settimana di Giovani Talenti ci riporta a latitudini nordiche. Oggi tappa in Danimarca. Nome: Claudio. Cognome: Bellegatta. Età: 36 anni. Città di origine: Busto Arsizio. Studi: scienze politiche. Anno in cui hai lasciato l'Italia: 2010, l'ultima volta. Per andare dove? Danimarca. Perché? Motivi familiari. Quale lavoro svolge attualmente? Seguo i mercati internazionali di un'agenzia di sviluppo business. Dove? Copenaghen. Tornerai? Se possibile sì, molto volentieri. Danesi degli Acqua, Good Morning Sunshine, per introdurre la storia di Claudio Bellegatta. Confermo, lavorare per stranieri implica spesso più autonomia, maggiori responsabilità e possibilità di raggiungere posizioni importanti. Così Claudio ha iscritto a giovanitalenti@radio24.it, tracciando un bilancio della tua esperienza nel bel paese. In realtà oggi parleremo molto della tua storia di imprenditore. Prima però analizziamo l'altra faccia della medaglia con una domanda secca. Siamo un paese culturalmente ostico verso i giovani di talento? Perché gli stranieri sembrano apprezzare e valorizzare di più persino qui da noi i nostri giovani più qualificati e ambiziosi? E la prima domanda è perché da noi è più difficile per un giovane emergere, perché è poco meritocratica la società e il mondo del lavoro. Perché invece gli stranieri favoriscono i giovani? Perché conviene, perché hanno forze fresche, nuove idee, più energia. Come sempre partiamo dai tuoi studi. All'università scegli scienze politiche, Università di Milano, perché? Perché mi piaceva, anche se non era consigliata da tutti che mi puntavano più su qualcosa di tecnico, pensavo che era la scelta migliore fare quello che mi piace. E come molti protagonisti delle nostre puntate, hai approfittato dei programmi di scambio europei, una borsa Erasmus in Norvegia, a Tromso per 7 mesi, poi altri 5 da studente all'Università di Copenaghen. Quanto queste esperienze si sono poi rivelate decisive? Tantissimo, soprattutto perché mi ha permesso di emergere tra tanti curriculum molto uguali ai miei e mi si è aperta anche la mente molto in contesti internazionali. Piccola provocazione, secondo te occorre ridisegnare la nostra istruzione universitaria avvicinandola di più non solo al mondo del lavoro ma anche a una maggiore internazionalizzazione degli studenti? Assolutamente sì, l'università deve essere un laboratorio per poi permettere alle persone di entrare in azienda già preparate, con una visione più imprenditoriale ed economica. Ti laurei nel 2002, guardandoti indietro, qual è il giudizio complessivo sulla qualità dell'istruzione ricevuta qui? Positivo. E tu stesso sottolinei come queste esperienze all'estero ti abbiano spianato la strada lavorativa in Italia. Come vedremo però, una strada che ti ha portato più verso datori di lavoro stranieri che non italiani. Prima esperienza un anno all'Agenzia ONU per lo Sviluppo Industriale. Come ci sei arrivato? info@nazioniunite.com. Così facile? Ne ho spedite tante, ho fatto tanta ricerca, ho spedito tanto e dopo sono arrivati i frutti. Non bisognava conoscere? No, sono stato fortunato, anche se non è sempre così. A metà degli anni 2000 due esperienze di lavoro, entrambe in ambito prettamente italiano, la seconda delle quali nel dipartimento marketing. La prima invece si era conclusa male, con una causa di lavoro che poi ha fatto anche giurisprudenza, originata dall'interruzione improvvisa del tuo contratto a progetto. Allora Claudio, questo è un paese meritocratico? Un paese dove senti di poter venire valutato solo sulla base dei tuoi risultati, oppure c'è sempre il sospetto che ci sia qualcun altro pronto a passarti davanti per altri motivi? Nel settore pubblico forse no, questo non è la normalità, infatti sono stato un po' la mosca bianca e alla fine sono anche stato espulso da questo sistema. Nel settore privato penso di sì. All'inizio è stato difficile trovare soprattutto buone esperienze lavorative, emergere da un sistema di raccomandazioni e stage inutili non retribuiti, ma alla fine ho avuto, sempre grazie alle mie forze, buone opportunità. Scrivi a giovanitalenti@radio24.it. Allora Claudio, cosa va cambiato nel nostro mercato del lavoro per renderlo più europeo? Senza dubbio la meritocrazia è essenziale e bisogna molto avvicinare di più i giovani al mercato del lavoro, dandogli più possibilità di fare invece che magari essere posteggiati per anni senza avere grosse possibilità. Ultima esperienza in Italia, la sede milanese di Cotra, agenzia della Corea del Sud dedicata agli investimenti. Di cosa ti sei occupato esattamente e con quali soddisfazioni professionali, poco più che trentenne? Parlavo dell'interscambio tra Italia e Corea e degli investimenti tra la Corea e l'Italia. È stata un'esperienza molto bella, devo dire che è stata un'esperienza che mi ha arricchito tantissimo. E poi se ne vanno tutti, da qua se ne vanno tutti, non te ne accorgi ma da qua se ne vanno tutti. Nel 2010 il salto in Danimarca, o meglio il ritorno, la tipica tempesta perfetta. Mia moglie danese voleva tornare a casa, c'era la possibilità di comprare una bellissima abitazione sul mare a un ottimo prezzo. Mio figlio era in arrivo, il quale avrebbe goduto del modello danese per l'infanzia, leggermente più attraente di quello italiano, scrivi. Alla fine, Claudio, si lascia l'Italia anche per garantire un futuro migliore ai propri figli? No, su questo non sono d'accordo. C'è un sistema familiare e sociale che tiene a parte tutto. Anche il welfare state pubblico? È sotto attacco in questo momento, però a parte tutto c'è un welfare abbastanza forte. Certo non qui come la Danimarca, ma loro sono 5 milioni di abitanti. In Danimarca inizia la tua seconda vita da imprenditore. Allora, brevemente, cos'è Kolumdae, come l'avete fondata e di cosa ti occupi? L'abbiamo fondata 2 anni fa, ho lanciato questa idea, i miei ex colleghi esteri l'hanno raccolta, abbiamo un grosso network internazionale. Rapidamente due riflessioni che forse spiazzeranno un po' i nostri ascoltatori. La prima, tu ti definisci positivissimo sull'Italia al punto che sogni di spostare Kolumdae a Roma. Quali segnali di speranza intravedi? Negli ultimi 8 mesi c'è stato un grosso cambio politico e questo secondo me abbiamo il nostro, forse farà sorridere, ma un nostro piccolo Obama che è cambiato più lui in 8 mesi che in anni magari negli Stati Uniti. La seconda riflessione, più che una riflessione, una strigliata ai giovani italiani. Tu dici, occorre diventare una generazione del cambiamento, più che una lobby del no. In che modo? Non credo che sia lo spirito giusto dire no sempre a tutto, anche perché credo nel dopoguerra i nostri nonni iniziavano veramente con un'Italia a pezzi e non credo che avevano questo atteggiamento di dire no a tutto. Domanda diritto, Claudio, come vedi l'Italia dall'estero, cosa c'è che non va e una proposta concreta da cui ripartire? C'è tanto da fare, però credo che gli spazi di cambiamento ci sono ancora molti, si può fare bene, ripartire, stiamo credo già ripartendo. Giovani talenti. Bentornati a Giovani Talenti, il programma di Radio 24 che vi racconta le storie dei giovani italiani emigrati per affermarsi professionalmente. In questa puntata parliamo della vicenda di Claudio Pelegatta, 36enne imprenditore e business development manager a Kolumdae, azienda da lui stesso cofondata a Copenaghen. Claudio vi giunge dopo una laurea in scienze politiche a Milano, integrata da esperienze Erasmus e studio nel nord Europa. Prima di lasciare la penisola sperimenta il mondo del lavoro tricolore, con risultati alterni, ottimi riscontri quando lavora per aziende straniere e esperienze più contrastate quando si tratta di imprese italiane. Una tempesta perfetta legata ad esigenze familiari lo proietta 2 anni fa a Copenaghen, dove cofonda la sua azienda. Claudio vede segnali finalmente positivi giungere dal bel paese e spera di potervi fare ritorno lavorativamente parlando. Ci raggiunge ora in linea Fulvia Guazzone di Liberi Tutti, società che ha ideato e sviluppato per i sistemi formativi di Confindustria il progetto La tua idea di impresa.it. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a tutti voi. Fulvia, subito una considerazione che si allaccia alla storia di Claudio. Serve secondo te una scossa generazionale ai giovani italiani? Sì. Serve una scossa generazionale, anche se io ritengo che i giovani siano molto moderni e molto globali, però tendono ad esserlo nella loro sfera privata, nella loro sfera di amicizie, quindi sono anche poco intraprendenti, ma questo credo sia una forte carenza culturale che nasce prima in famiglia. Le famiglie spingono poco i giovani all'estero e comunque a sfidare il futuro anche con delle idee imprenditoriali, e poi è una carenza culturale che continua un po' nella nostra società, c'è una forte resistenza al nuovo, anche perché manca spesso un sistema di riconoscimento e di premio del merito. Raccontiamo brevemente il progetto La tua idea d'impresa. A chi si rivolge e come è strutturato? La tua idea d'impresa è una web community di giovani che vogliono fare impresa, appunto. Quindi sono giovani delle scuole superiori che si sfidano a colpi di progetti d'impresa che vengono votati dagli imprenditori italiani e che vincono in base alle loro idee. E quali sono le migliori idee che avete ricevuto? Vedi una spinta innovativa? Sicuramente c'è una forte spinta innovativa, non posso dire quali sono le migliori perché c'è la votazione online e non voglio influenzare chiaramente il processo di voto, però c'è una forte sensibilità all'ambiente, al sociale, a tutto ciò che è web e soprattutto una forte propensione ad applicare l'innovazione, la ricerca e le nuove tecnologie anche a settori tradizionali. Secondo la Commissione europea la promozione dell'educazione all'imprenditorialità è in aumento nella maggior parte dei paesi comunitari, tranne che in Italia dove manca una specifica strategia nazionale. Voi ci state provando con questo progetto, ma quali ritardi e quali colpe scontiamo? Io insisto sempre molto sul fattore culturale, nel senso che manca assolutamente una cultura d'impresa. I giovani sono convinti che l'impresa sia una questione di famiglia, un patrimonio che viene trasmesso di generazione in generazione, che quindi sia impossibile per un ragazzo partire da zero. Le aziende hanno fatto poca comunicazione, nel senso che non hanno spiegato ai giovani che cosa significhi essere un imprenditore, quindi il fatto che l'impresa si fondi su un'idea e poi su una squadra che è capace di realizzarla. Serve anche un'educazione al merito, merito alla formazione, al sacrificio, e poi serve un sistema di misure amministrative, fiscali, di semplificazione burocratica, credito d'imposta, mettiamole tutte, insomma tutto ciò che può favorire la nascita di start-up. Claudio, hai una domanda per Fulvia Guazzone? Quali settori maggiormente sono interessati a questi progetti e sono rivolti anche all'estero? No, non sono rivolti all'estero nel senso che non nascono per l'estero, però devo dire che proprio l'applicazione di una visione globale e digitalizzata, diciamo così, dei ragazzi consente di promuovere il servizio, il prodotto anche ad un mercato estero. Quindi diciamo che c'è una propensione naturale ad aprirsi ad un contesto estero, anche se forse loro non ne sono così consapevoli. Fulvia, quali sono le prossime tappe della tua idea di impresa, ma soprattutto come partecipare? Prossime tappe, adesso siamo in piena votazione, il 5 di giugno al Goldoni di Venezia ci sarà una grande premiazione nazionale, dopodiché noi ripartiamo con il nostro tour per l'Italia per la nuova edizione. Per partecipare è sufficiente andare sulla nostra piattaforma, latuaideadimpresa.it, e mettersi in contatto direttamente con noi. Grazie a Fulvia Guazzone, in bocca al lupo. E domanda di rito per Claudio Pellegatta: quale consiglio daresti a un giovane coetaneo che magari in questo momento si trova in difficoltà e che sta pensando tra le varie vie d'uscita a un espatrio? Senza dubbio, nei momenti di crisi bisogna investire su se stessi, come per le imprese bisogna cercare nuove opportunità. Se si ha la possibilità si può crescere, si può imparare tanto per poi dopo tornare più competitivi. Seconda cosa, siamo il paese delle meraviglie, ci sono tante possibilità di espandere e vendere il Made in Italy all'estero, e soprattutto con internet c'è un abbassamento delle barriere, c'è la possibilità anche di raggiungere obiettivi senza avere grossi investimenti. E siamo giunti allo spazio dedicato alle associazioni e alle iniziative che si occupano di quella che possiamo definire come la nuova immigrazione. Oggi andiamo a indagare il problema della fuga dei giovani medici dall'Italia. Una vera e propria emergenza, denuncia Giuseppe Cannuni, amministratore di Doctors in Fuga, portale nato per aiutare le nuove leve della professione medica a espatriare. Doctors in Fuga nasce dall'idea di un collega con cui abbiamo studiato insieme per quasi tutti gli anni dell'università, emigrato prima in Irlanda, successivamente in Nuova Zelanda. Venendosi a trovare di fronte a grosse difficoltà durante il percorso burocratico e tecnico, mi ha chiesto che ne pensavo. Per cui da lì poi è nata l'idea di questo scambio di informazioni e di esperienze. Quanti giovani medici lasciano ogni anno l'Italia? Diciamo che annualmente sono parecchi. Quali sono i motivi che fanno scappare all'estero i nostri giovani medici? Innanzitutto la carenza di concorsi, e questi qua quando sono fatti poi non sono sempre il massimo della trasparenza. Poi c'è anche da dire questioni economiche, senza dubbio, ultimamente l'insicurezza di un futuro previdenziale. E all'estero cosa si trova? Strutture che vanno a tutelare il giovane medico e soprattutto che si sforzano nel, tra virgolette, passando il termine, farlo crescere professionalmente. Mentre qui ancora siamo per canali un pochino, diciamo, più arretrati, per cui si trovano ad andare avanti solo le persone che, tra virgolette, devono andare avanti. Non gli outsider. Esatto. E quali sono i paesi che più rappresentano lo sbocco per voi? Qua c'è da fare una prima distinzione tra attività assistenziale e ricerca. Attività assistenziale, quasi tutti i paesi del mondo ricercano personale medico, solo l'Italia ce l'ha in esubero. A livello assistenziale, appunto, sono per lo più paesi europei, quindi parliamo di Germania, parliamo di Inghilterra, Irlanda, Francia, mentre a livello di Oceania l'Australia e la Nuova Zelanda senza dubbio. Se parliamo poi a livello di ricerca, gli Stati Uniti e ultimamente i paesi della Lega Araba stanno emergendo di più come ricerca di personale qualificato. Il vostro è nato come gruppo Facebook e poi è diventato un sito. Esatto. Quali sono le attività, le iniziative che intendete mettere in campo, anche per sottolineare il problema? Quanti colleghi e non lo sapessero, dare questa informazione che comunque, per quanto nella propria città si possa essere relegati in un angolo, in altri posti si viene valorizzati molto di più. Insomma, il merito fuori esiste, sappiate. Esatto. Che potete anche farvi valorizzare in un paese che vi merita, quando il vostro paese non vi merita. Sì. Per maggiori informazioni potete cliccare su www.doctorsinfuga.it. E per interagire con noi potete collegarvi online su Facebook nel gruppo Fuga dei Talenti o nella pagina fan Fuga dei Talenti. Potrete rispondere alle nostre discussioni settimanali che rilanciamo anche sul gruppo La Fuga dei Talenti all'interno del portale professionale LinkedIn. Potete pure contribuire al blog aperto all'indirizzo radio24.sole24ore.com/blog/nava. Inviate le vostre lettere a giovanitalenti@radio24.it e le pubblicheremo sul web. Resta attiva la nuova iniziativa sui nostri canali online. Compiliamo insieme un manifesto di proposte dei giovani talenti italiani per rendere il nostro un paese dove i migliori circolano